Pisa, febbraio 1076. Come con tutte le ingiurie arrecatele da Goffredo il Gobbo, Matilde ignorò le accuse di adulterio emerse dal sinodo di Worms. Sapeva che Gregorio, saggio com'era, aveva fatto un'ostentazione così elaborata e teatrale della scomunica di Enrico per diverse ragioni. Prima fra tutte l'intento di distogliere l'attenzione dalle accuse di adulterio contro di lei. Per il momento quindi le aveva fatto guadagnare un po' di tempo, tempo di cui aveva bisogno con la madre in fin di vita. Matilde era anche concentrata sul mantenimento dell'integrità degli eserciti nell'eventualità che Enrico tentasse di valicare le Alpi per entrare in Italia e marciare sui suoi territori con lo scopo di arrivare a Roma. Non avrebbe mai permesso che ciò accadesse, ma l'esercito tedesco era in fase di espansione e sarebbe stato difficile sconfiggerlo se l'avesse attaccata in tutta la sua potenza. Aveva inviato alcuni messi ad Arduino, che si trovava a Canossa, ma era convinta che lui avesse la situazione sotto controllo, come sempre. Nonostante la sua sicurezza e la sua spavalderia, Matilde era preoccupata ed era rimasta sveglia quasi tutta la notte a discutere di strategie insieme a Con. Girava voce che Goffredo stesse tornando in Lorena per radunare le truppe e marciare sulla Toscana, deciso a rivendicare i suoi titoli con la forza. Poiché Matilde ora si trovava davanti a una formale e comprovata accusa di adulterio lanciatale addirittura dal re, suo marito aveva il diritto di farla rinchiudere in un convento di sua scelta. Avrebbe così eliminato la sua influenza, consentendo alle truppe di Enrico libero accesso ai passi appenninici durante il suo viaggio per andare a occupare Roma e a insediare un proprio uomo sul trono di Pietro. Matilde uscì a fare una passeggiata, sperando di schiarirsi le idee nella fredda brezza invernale, dopo aver passato la prima parte della mattinata con sua madre. Aveva dato a Beatrice qualche cucchiaio di brodo e le aveva asciugato la fronte con un panno morbido nei rari momenti in cui la madre si era sentita più in forze, ma gli sforzi, per quanto piccoli, avevano fiaccato Beatrice, che perciò era tornata a dormire. Matilde si fermò quando vide Con legare un involto al suo cavallo, circondato da un gruppetto di uomini. Non erano uomini qualsiasi. Erano soprannominati gli incorreggibili ed erano i più accaniti di tutta la guardia, quelli con cui Matilde si sentiva più a disagio. Aveva rigidi codici di condotta per i suoi eserciti e li faceva rispettare, senza compromessi. Non avrebbe mai tollerato saccheggi o massacri di massa durante una battaglia e le regole dovevano essere osservate, sempre. Matilde aveva censurato gli uomini che circondavano Con e aveva persino minacciato di espellerli a causa del loro comportamento eccessivamente violento. Il gigante celtico l'aveva fermata prima che potesse allontanarli. Malgrado tutti i difetti, le erano fedeli, proprio come i loro padri erano stati fedeli a Bonifacio, e a volte, le aveva spiegato in modo paziente, era necessario avere uomini così duri in un esercito. Ogni comandante aveva bisogno di qualche incorreggibile. Con aveva promesso che si sarebbe assunto la responsabilità dei loro comportamenti e si sarebbe assicurato che non saccheggiassero né depredassero innocenti in nessuna circostanza di guerra e non. Matilde aveva acconsentito, suo malgrado, ma sapeva anche che doveva lasciare all'amico campo libero perché potesse svolgere il suo dovere e avere fiducia nella sua capacità di giudizio. Quando non riuscì più a trattenersi, si avvicinò. Dove state andando? Con biascicò la risposta mentre legava con una cinghia un'ascia a doppio taglio al suo cavallo da guerra preferito. Era evidente che non si trattava di una missione diplomatica. Ho degli affari da sbrigare. Che generi di affari? Affari miei. Non voleva cedere. E neanche lei. Alla fine Con ruppe il ghiaccio. Com'è stata tua madre oggi? Matilde fece un inchino ironico. Come al solito, ma molte grazie per aver cortesemente chiesto della sua salute, gentile signore. Quindi gli disse in tono brusco: Non cambiare argomento, devo saperlo, Con. No, non devi. E per favore non chiedermelo più. Se non me lo chiedi, non te lo dico. Se non te lo dico, non lo sai, capisci? Conosco il genere di uomini che stai portando con te. Sto portando uomini fedeli che non hanno nulla da perdere, non sanno che faccia ha la paura. Matilde era esasperata, così decise di fare leva sulla sua natura protettiva. Mi stai spaventando? Non ci cascò. Ah, niente ti spaventa. Lo stai facendo tu, proprio adesso. Con si voltò e le posò le mani sulle spalle. Matilde, Sono l'unica persona sulla Terra di cui non dovrai mai aver paura. La mia unica missione è quella di proteggerti da tutte le minacce e da tutti i pericoli. Ti fidi di me? Annuì con aria solenne. Certo. Allora prega che torni sano e salvo, mia piccola Amazzone, e tieniti lontana dai guai finché non tornerò. La baciò sulla testa e le arruffò i capelli come faceva sempre sin da quando era solo una ragazzina. Matilde lo guardò andarsene, seguito dalla marmaglia degli incorreggibili, tutti provvisti di molteplici armi, appese ai loro cavalli, scosse il capo. Con apprensione, quegli uomini erano capaci di tutto. Anversa, Belgio, 26 febbraio 1076. Gli uomini di Cohn cavalcarono a tutta velocità attraverso le Alpi, galoppando verso nord per raggiungere le Fiandre in tempo per intercettare i soldati della Lorena. Goffredo e le sue truppe stavano tornando al palazzo di Verdun dopo l'accusa di adulterio formulata a Worms. Gli incorreggibili adesso li seguivano come un'ombra, inoltrandosi nella foresta per non farsi vedere dalla scorta di Goffredo. Quando il gruppo della Lorena si fermò per accamparsi per la notte, i guerrieri di Conn fecero lo stesso lì vicino, ma ben nascosti dagli alberi folti. Avevano in programma di attaccarli alle prime luci dell'alba, facendo sembrare che il duca fosse stato la vittima ignara di una rapina sulla via pubblica. Non era proprio onorevole come combattimento tendere un'imboscata dei soldati addormentati e del tutto impreparati. Conn doveva ammetterlo. Ma la posta in gioco era così alta quando si trattava della Toscana e nello specifico dell'incolumità di Matilde che aveva scartato la possibilità di giocare in modo pulito. Ecco perché non poteva permettere che Matilde lo sapesse. Lei non avrebbe mai permesso che quel piano venisse messo in atto. L'assassinio non era da lei. Nonostante la sua forza era più una mistica che una guerriera. Conn sapeva che la battaglia la faceva stare male per giorni, dopo che si era conclusa, le faceva venire gli incubi, anche se era un segreto noto solo a chi faceva parte della sua cerchia più intima. Combatteva nelle battaglie reali perché doveva, non perché le piacesse. Erano in inferiorità numerica rispetto ai soldati della Lorena ed erano in svantaggio anche per quanto concerneva il territorio. La gentaglia di Goffredo conosceva bene la regione, i toscani invece erano forestieri. Inoltre era febbraio e faceva un freddo maledetto, cosa che gli italiani dal sangue caldo faticavano a sopportare. Il freddo era simile al dolore per loro e con le dita congelate non combattevano bene, mentre i tedeschi erano avvezzi a quel gelo terrificante. Conn aveva bisogno di un piano per ridurre lo svantaggio e limitare i rischi. Questo era l'unico che fosse riuscito a escogitare. Sperava che funzionasse. Non era stato difficile per Conn convincere gli incorreggibili ad accompagnarlo in quella missione, specie dopo che aveva raccontato loro in dettaglio le orribili e depravate pratiche sessuali, la maggior parte delle quali inventata per ottenere un effetto più convincente che il gobbo aveva inflitto alla loro divina e perfetta contessa contro la sua volontà. Gli incorreggibili erano inorriditi dal solo fatto che avesse to osato toccare Matilde e avevano acconsentito subito a vendicarsi di quel mostro. Umberto, il più anziano della banda, che aveva iniziato a fare il mercenario quando era solo un ragazzino orfano, durante la prima campagna di Bonifacio contro i pirati, fu messo a sorvegliare l'accampamento del duca durante la gelida notte. Umberto non era un tipo molto raccomandabile, ma a modo suo nutriva un certo affetto per la figlia di Bonifacio e, come tutti quegli uomini, rispettava un particolare codice d'onore. Odiava il gobbo, come la maggior parte degli uomini di Matilde, perché rappresentava una minaccia che incombeva sulla loro fanciulla e perché considerava la gente della Toscana poco più che oggetti che esistevano solo per soddisfare i capricci del re tedesco. Al momento lo odiava ancora di più perché viveva in quel gelido inferno dimenticato da Dio che gli aveva trasformato le punte dei piedi in due pezzi di ghiaccio dentro gli stivali. Fu in questo stato di agitazione che Umberto, l'incorreggibile, notò del movimento nell'accampamento della Lorena. Afferrò la spada, quella lunga e affilata con la lama a doppio taglio, e si avvicinò furtivo come una creatura del bosco per poter osservare meglio. Non riusciva a credere ai suoi occhi. Goffredo il gobbo stava andando verso di lui. Lo aveva visto? No, era chiaramente disarmato. Che cosa stava? Ah, ma certo, quale altro motivo poteva mai avere un uomo per rischiare l'assideramento nel bel mezzo della foresta nel buio pesto? Richiamo della natura. Goffredo doveva liberarsi. Umberto aspettò un momento. Aveva imparato molte cose dal grande Bonifacio. Una era questa: quando sei in inferiorità numerica, devi approfittare di qualunque vantaggio si presenti sul tuo cammino. Metti la sopravvivenza prima di qualsiasi altra cosa e il fine spesso giustificherà il mezzo. Aveva imparato anche un'altra cosa da Bonifacio: chiunque avesse minacciato la sua bambina doveva essere eliminato. Fomentato dai racconti di Con sulla depravazione del gobbo Umberto, decise lì su due piedi che quell'uomo non meritava una fine nobile. Sussurrò per Bonifacio e Matilde, mentre attaccava il gobbo alle spalle, conficcando la lama a doppio taglio della sua spada nelle natiche di Goffredo di Lorena. La lama lacerò l'intestino al gobbo senza lasciargli né il tempo né la forza di gridare. Umberto ritirò la spada insanguinata e corse da Con per dare agli uomini il segnale di levare le tende e fuggire. Avrebbe spiegato in seguito ciò che aveva fatto. Non era stata un'impresa di cui andar fieri, ma aveva eliminato il loro bersaglio senza che nessuno dei loro uomini rischiasse la vita in un combattimento aperto. Il gobbo languì tra atroci sofferenze per diversi giorni prima di morire. La sua orribile esecuzione, inattesa e imprevista come era stata, ebbe un interessante e benefico effetto collaterale per Matilde. Mandava un messaggio a tutta l'Europa. Chiunque minacciasse Matilde di Toscana sarebbe stato eliminato con qualsiasi mezzo necessario. Nemmeno la protezione del re sarebbe stata sufficiente a salvare i suoi nemici dall'ira dei suoi difensori. Gli uomini italiani rispettavano le manifestazioni di forza e il loro appoggio a Matilde raggiunse i massimi livelli, visibili in termini di potenza militare e tributi pagati. Per Enrico IV, questo era davvero un cattivo presagio. Germania, Pasqua 1076. La sentenza di scomunica arrivò alla porta di Re Enrico all'inizio della settimana santa, nell'anno 1076. Non era una sorpresa e i tedeschi si erano preparati una risposta ufficiale per il papa impostore. Non si poteva fare marcia indietro ora che la guerra era stata dichiarata. Era necessario continuare ad attaccare Gregorio sulla base dei reati emersi durante il sinodo di Worms. Per molte ragioni, prima fra tutte l'esigenza di tenere i signori feudali tedeschi allineati con la strategia di Enrico. Molti di essi erano diffidenti nei confronti di quel sovrano e della sua natura avida e narcisistica, per non parlare delle dicerie che lo seguivano ovunque riguardo alle sue perverse inclinazioni personali. Infine, erano per natura un popolo superstizioso e deporre un papa che Dio aveva già salvato da una folla adirata causava grande preoccupazione a molti di loro. Il consigliere spirituale più intimo di Enrico, il vescovo Guglielmo, decise di lanciare la campagna contro Gregorio dal suo seggio nella cattedrale di Utrecht la domenica di Pasqua. Subito dopo la funzione che celebrava il Cristo risorto, Guglielmo pronunciò una caustica condanna dell'impostore che si faceva chiamare papa. Evidenziò il fatto che Dio aveva scelto Enrico come re e che quello era ciò a cui la gente doveva rimanere ancorata nella sua fede. Se Enrico era il sovrano consacrato da Dio, allora di sicuro quel papa che si definiva governatore del mondo doveva essere un impostore che andava eliminato. Fu un sermone discutibile e anche incauto in un giorno santo come quello della Pasqua. Per molti cittadini tedeschi quella critica al vetriolo nel giorno più sacro di tutti era inammissibile. Sconvolti dal comportamento del loro vescovo, i nobili di Utrecht si accordarono in segreto per riunire un concilio di emergenza il giorno seguente in cui discutere dello stato delle cose. La riunione non ebbe mai luogo. La mattina dopo, al loro risveglio, gli abitanti di Utrecht scoprirono che la cattedrale era stata bruciata fino alle fondamenta nella notte più sacra dell'anno. Non fu mai stabilita la causa dell'incendio, che fu interpretato dal popolo tedesco come un prodigio, un segno inviato da Dio per far capire loro che stavano seguendo la strada sbagliata, condannando il pontefice scelto da lui. Il vescovo Guglielmo non si arrese, continuò la sua invettiva contro il Papa con il re a suo fianco. Incolpò della distruzione della cattedrale i simpatizzanti del Papa che si stavano adoperando per suscitare proprio il tipo di paura che stava cominciando a dilagare in Germania. 3 settimane dopo il rovinoso incendio, il vescovo tenne un altro infervorato discorso nel tentativo di ottenere l'appoggio di altri membri del clero di tutta Europa. Non avrebbe mai saputo quale impatto ebbe quel discorso, poiché, robusto e perfettamente sano, quando andò a letto quella sera, morì nel sonno. Renrico IV precipitò subito in una grave crisi. La morte improvvisa del suo principale sostenitore spirituale, neanche un mese dopo la distruzione della cattedrale, era troppo per la maggior parte dei suoi sudditi e si credevano a quello che aveva detto il vescovo Guglielmo, che Dio aveva parlato, ma erano convinti che avesse parlato contro il re e in favore del Papa. E quel Papa, Gregorio VII, era sempre l'astuto politico dal tempismo straordinario. Non perse neanche un secondo e avviò una vera e propria campagna contro la reputazione del re. Matilde intervenne in suo aiuto con entusiasmo, rese omaggio alla sua eroina, la regina Boudica, imitando la scaltra propaganda strategica che aveva aiutato la guerriera celtica a sconfiggere la potenza di Roma un migliaio di anni prima. Pamphlet sulla natura perversa di Enrico furono fatti circolare in tutta l'Italia e in tutta la Germania. Gli scritti del Papa su Enrico IV erano vaghi, si riferivano solo ad azioni immorali, atti riprovevoli e cattiverie inaudite, senza fornire prove specifiche. Poiché le voci sulla depravazione di Enrico si erano diffuse in tutta la Germania e l'Italia settentrionale, la strategia di Gregorio e Matilde permise supposizioni illimitate. L'ambiguità fu spietatamente efficace. Gli inquieti signori e vassalli tedeschi, spaventati dagli ultimi avvenimenti e animati dall'ingegnosa propaganda di Gregorio e Matilde, chiesero che il re facesse ammenda davanti al Papa. Al sovrano scomunicato era stato dato un anno a partire dal giorno dell'anatema per pentirsi della sua malvagità e rinnovare la sua promessa di fedeltà al Santo Padre. Enrico si affannò per trovare appoggio. Ma il macabro e pittoresco assassinio di Goffredo il Gobbo incombeva come un'ombra sui signori feudali tedeschi. Nessun altro avrebbe rischiato di incontrare una sorte tanto orrenda, e di certo non per un re che in fin dei conti poteva anche essere un mostro che andava contro Dio. Pisa, aprile 1076. Non sono mai stata la madre che è stata Isabella per te. Beatrice pronunciò quelle parole con voce roca fra le labbra screpolate. Stava morendo ed era così da mesi, in modo lento e doloroso, ma era chiaro sia a Matilde sia a sua madre che la fine si avvicinava più veloce ormai. Entrambe avevano qualcosa da dire prima che accadesse l'inevitabile. Non dire così, mamma, l'ammonì Matilde asciugandole di nuovo la fronte con un panno bagnato di acqua fredda. Sei stata la mia migliore amica. E la mia consigliera non sarei riuscita a fare nessuna di queste cose senza di te. Stava piangendo adesso, si era sforzata tanto di non piangere, ma a quel punto non riuscì più a trattenersi. Sappi solo, Beatrice si contorceva ora, che ti voglio bene e che mi dispiace per le volte in cui, per il tuo matrimonio infelice. Matilde annuì. Sapeva quanto doveva essere costata alla madre quella decisione, sapeva che la madre era vissuta tanti anni nel rimorso per quel periodo terribile. Beatrice non era al corrente della recente esecuzione del Gobbo. Matilde aveva deciso che era meglio non dirglielo per evitare che si preoccupasse che la colpa potesse essere affibbiata a loro. Beatrice entrò e uscì dal delirio per il resto della giornata, a volte parlando a vanvera, altre volte in modo lucido. Nel tardo pomeriggio sussultò nel letto e afferrò la mano di Matilde. Lo vedo. Tilde. Chi, madre? Tuo padre. Oh, l'ho amato. E lo amo così tanto. Esitò un istante, persa nella sua visione. Un flebile sorriso le attraversò il viso. È fiero di te, di nostra figlia. Ti guarda dal suo posto. Al fianco del divino e io sto andando da lui adesso. Beatrice usò le ultime forze che aveva in corpo per stringere la mano a Matilde. Ti vuole bene, Matilde. E anche io, amore. La voce di Beatrice si affievolì su quella semplice parola che rappresentava tutto ciò che aveva contato di più nella sua vita ricca di avvenimenti. I suoi sentimenti per il suo amato e per la loro figlia. E quello che erano stati come famiglia. Il suo sorriso si allargò prima che chiudesse gli occhi per l'ultima volta. Beatrice di Lorena aveva lasciato questo mondo ormai e stava per entrare nell'altro, dove il suo unico e vero amore l'attendeva per accoglierla fra le braccia, dove sarebbero stati insieme per l'eternità.